Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Benvenuti e benvenute a Mebius. Ciao, ma perché mi guardi così, Chiara? Ciao Federico, buonasera a tutti. No, io lo so che tu non lo vuoi dire, ma io insomma ci tengo, volevo farti gli auguri. So che insomma però ne compi 400 e io volevo che tu lo dicessi, perché li porti bene, no, non male. Cioè, 400 sono tante, lo capisco. 400 sono tante, però scusa, anche tu quanti pensi di averne? Sì, sai, per una donna è sempre difficile dire questi numeri, però insomma sì, in effetti 400, però li porto bene. Porti anche bene. Io 400 puntate di Mebius. Questo stiamo parlando. Siamo nati l'8 settembre 2007. E tu hai fatto i calcolini e... certo, siamo, e questa è la puntata numero 400, quindi tanti, tantissimi auguri. E che cosa riserva questo menù di oggi? Allora, io adesso stappo una bottiglia, la verso in due bicchieri, però me lo bevo soltanto io, perché Chiara è già andata di là, nell'altro studio più grande, per il nostro consueto appuntamento con supereroi e scienza, e abbiamo gli Avengers, perché è anche appena uscito il film, e quindi incominceremo da lei. E poi mi ritroverò con Chiara per dire qualcosa su Visite in corsia, un appuntamento stranissimo a Bologna, è veramente geniale. Come sempre i nostri amici Luca e Stefano, che ci accompagnano nel mondo dei supereroi, nella scienza dei superpoteri. C'è questa volta la sigla di Capitan America, del, se non sbaglio Luca tu correggimi, il cartone degli anni 60. Esatto. E Capitan America è il leader degli Avengers, esatto, dei Vendicatori, che adesso sono famosissimi perché sono al cinema, quindi appena uscito il film, che si chiama, se non erro, Avengers Age of Ultron. Esatto. Ecco, ti pregherei di introdurceli. Allora, i Vendicatori sono, per loro stessa definizione, una definizione molto modesta, gli eroi più potenti della Terra. Vengono creati nel 1963 da Stan Lee e Jack Kirby, che sono un po' i creatori di quasi tutti i supereroi della Marvel, che mettono assieme le loro superstar, cioè i personaggi più famosi della casa editrice Marvel che c'erano in quegli anni. Non erano a corto di idee, dovevano soltanto fare volevano fare una cosa in più, epocale. Perché anche, diciamo, quelli dell'alta casa editrice avevano un gruppo con Superman, Batman e gli altri, quindi anche loro non volevano essere da meno. Gli eroi nascono appunto per fronteggiare le minacce che un eroe da solo non potrebbe mai affrontare, e nel primo numero la minaccia in questione è Loki, cioè il fratello di Thor, esattamente come nel primo film. Loro si mettono assieme con una formazione diversa da quella dei film, e tra l'altro molto più mutevole, perché i film pare che saranno in tutto 3, invece nei fumetti con 50 anni di storie ci sono stati oltre, abbiamo fatto i conti, 140 Vendicatori o Avengers, che dir si voglia. Però dai, ricordiamo i più famosi. Beh, i più famosi, ovviamente, a parte appunto Thor, che viene coinvolto in quanto fratello del cattivo, ecco, sono nei fumetti Capitan America, Iron Man e Hulk, nei primi solo per pochissime storie, mentre invece nei film è un po' uno dei caposaldi del gruppo. Allora, partiamo dal leader, visto che come al solito cerchiamo di snocciolare i superpoteri e di cercare di raccontarli insieme a Stefano dal, certo, punto di vista scientifico. Partiamo dal leader, da Capitan America. Il leader Capitan America, cioè Steve Rogers, è un po' più vecchio degli altri, perché non nasce negli anni 60, ma viene creato nel 1941, poco prima che gli Stati Uniti entrassero in guerra. Infatti nella sua prima copertina sta tirando un pugno ad Adolf Hitler. Viene creato da Joe Simon e Jack Kirby, viene poi abbandonato negli anni 50 perché i supereroi passano di moda, e ripreso nel decennio successivo, entrando poi nei Vendicatori, che lo ripescano in una corrente artica, ibernato come un surgelato. Mi sembra scientificamente ineccepibile. Ovviamente. Stefano, aspetta. In realtà è un gracile giovane che si chiama Steve Rogers, che si sottopone volontariamente a un esperimento scientifico che gli dona tutte le capacità dell'essere umano al massimo livello, cioè quindi lui ha tutte le caratteristiche umane al massimo potenziale fortissimo, esatto, intelligentissimo, in più ha fatto il nostro modello, in più è bello, biondo, ha fatto un addestramento clamoroso che gli ha dato tutte queste doti da stratega, da combattente, la capacità di usare lo scudo ed eccetera, e quindi è diventato, dopo il ripescaggio, è diventato subito il leader naturale dei Vendicatori, quindi da allora è sempre stato un po' il loro capo, la loro guida. Ecco Stefano, dal punto di vista scientifico, il super organismo organismo con tutte su queste super caratteristiche, esiste? Non esiste, purtroppo, mi viene da dire. Come al solito noi scienziati passiamo per i cattivi di turno, quindi questo scienziato che col siero crea il super soldato gli cambia la vita, poverino. Però è come al solito bello riuscire a immaginarci qualcosa di reale. Allora a me è venuto in mente che è vero, non esiste un super soldato, un super uomo, ma esiste una super specie, la specie umana. Cioè il nostro corpo, la nostra mente ha dei poteri che presi tutti insieme sono pazzeschi. Pensate, vabbè, le cose più ovvie sono le Olimpiadi, cioè riusciamo a correre a oltre 40 all'ora, riusciamo a saltare 2,5 metri con la rincorsa, riusciamo anche... I nostri campioni, riusciamo a sollevare 500 kg da terra, quindi proprio come Capitan America. Ma io ho spulciato un po' e ci sono delle storie bellissime, cioè c'è qualcuno che riesce a tenere il fiato per 18 minuti e 3 secondi ed è un italiano, il grande Giannoni, che ha il record di apnea, ma c'è chi riesce a stare nell'acqua ghiacciata al Polo Nord 1 ora e 44 minuti in costume come da bagno. Come Capitan America. Se sei bernato lui no, quindi esattamente, è ancora più forte. Questo Randy Garner, per esempio, è un ragazzo che all'università con i suoi amici è rimasto sveglio 11 giorni di fila per fare un esperimento scientifico e loro si davano il cambio a giocare a ping pong e a bowling con lui per tenerlo sveglio 11 giorni. Ma le cose più incredibili secondo me sono la resistenza alla dieta. Cioè c'è questo famoso irlandese che era durante la rivoluzione irlandese negli anni 20, Terence McSweeney, è rimasto senza mangiare per 74 giorni. Altro che pannella. Poi purtroppo è morto, ma come dire, il suo sciopero della fame è molto famoso. Questo è bello da raccontare, cioè non esiste Capitan America, ma se noi guardiamo l'umanità siamo veramente super. Tutti, diciamo, gli uomini da Guinness dei primati potrebbero essere riassunti nel personaggio di Capitan America. Va bene, allora andiamo avanti e passiamo al compagno di Capitan America. È questo il mio segreto, capitano. Sono sempre arrabbiato. Il supereroe più arrabbiato dell'universo, Luca, chi è? È Hulk, ovviamente. Ovviamente. Una delle sue frasi celebre era appunto: non volete vedermi quando sono arrabbiato, perché questo timido scienziato, Bruce Banner, viene esposto per sbaglio alle radiazioni gamma di una bomba. Siamo negli anni 60, quindi c'era una gran paura del potere dell'atomica, e che veniva esorcizzato in questo modo nei fumetti. Quindi lui esposto a queste radiazioni, questo scienziato mingherlino diventa un colosso verde dalla forza praticamente incommensurabile, perché diciamo che è stato nei fumetti Marvel si era racconta che lui non ha un limite alla forza, il suo limite è dettato solo da quanto si arrabbia, quindi più si arrabbia e più diventa quindi forte. Quindi teoricamente ha un'arrabbiatura infinita, una forza infinita. Esatto. Stefano, già stai facendo quella faccia lì. Sto fremendo. Adesso però tutti si stanno chiedendo perché è verde. Luca, esauriscici questa curiosità. Allora, diciamo che in realtà Hulk doveva essere grigio, perché nella sua prima apparizione, tristezza, negli anni 60, nel 1962, Hulk è effettivamente grigio. Che cosa succede? Nelle pagine, diciamo, nel fumetto originale, nelle ristampe che l'hanno fatto con quella colorazione. Okay. Che cosa succede? Che si accorgono che il colore grigio, con le tecniche di stampa di allora, non rimaneva costante vignetta per vignetta, quindi era sempre una tonalità un po' diversa. Gli veniva un po' pallido, certe poi, volte un sì, po' un macchiette. Un po' era quasi nero, un po' era grigino chiaro. Allora, che cosa fanno? Decidono di fare un colore che invece rimane sempre uguale, cioè il verde smeraldo, che tra l'altro, visto che il verde è il colore della rabbia, forse si adatta ancora meglio a questo personaggio, perché riesce a dare da subito l'idea del motivo per cui diventa così. Ecco, allora Stefano, visto che fremi, allora intanto si arrabbia in maniera infinita, è possibile insomma per noi arrabbiarsi così tanto in maniera infinita? Penso che gli ascoltatori lo sappiano, io parlo per esperienza, sì, arrabbiarsi però tantissimo. Però non ci fortifichiamo. Non ci viene quella forza, ecco. Lì, è vero che esiste un ormone che tutti conoscono, si chiama adrenalina, che in effetti funziona un po' come Hulk, ovvero ci dà per qualche secondo dei superpoteri. L'adrenalina è un ormone che va ad agire sul sistema simpatico, quindi quello che noi non controlliamo del nostro sistema nervoso, fa aumentare i battiti cardiaci, aumentare la portata del cuore, quindi diventiamo per qualche secondo dei superumani, ma non come Hulk, tanto da saltare un palazzo. Ma a proposito, perché uno dei suoi superpoteri è anche quello che fa dei salti incredibili. Io adoro Hulk per due motivi: uno, perché è uno scienziato e finalmente un supereroe scienziato, di solito gli scienziati però sono i cattivi, parte, è certo. Due, perché lui non vola, ma fa dei salti incredibili, tanto da saltare dei palazzi. Ecco, forse è verde anche perché è un ranocchione. No, in realtà, pare che no. Nel mondo naturale c'è chi può saltare come Hulk. Non sono le rane, non sono i canguri, ma sono animali molto più piccoli, sono le pulci. Ah! Una pulce, immagina, può saltare 70 centimetri, che è circa 100 volte la lunghezza del suo corpo, proprio come Hulk, e riesce a farlo perché gli insetti si sono inventati questa proteina che si chiama resilina, che è la sostanza più elastica che esiste sul pianeta. Quindi loro esoscheletro diventa un vero e proprio elastico, lo contraggono e poi lo fanno esplodere, cioè, letteralmente. Accumulano in qualche modo l'energia che poi viene sprigionata potenziale, che diventa cinetica con il salto. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Sempre in compagnia di Stefano e Luca per parlare della scienza, dei superpoteri degli Avengers. Eravamo arrivati, come abbiamo detto, al figo del gruppo, cioè il macho, è Iron Man alias Tony Stark. Ma chi è Tony Stark? Sentiamo. Sei grosso con l'armatura. Senza quella che cosa sei? Un genio, miliardario, playboy, filantropo. Il playboy. Eh già. E non è però questo il suo superpotere, o meglio anche. Diciamo che è un supereroe che riesce a essere ancora più invidiato dal pubblico maschile di tutti gli altri, appunto perché non solo è genio, ma è anche miliardario, playboy, filantropo. È perfetto! Ed è anche Robert Downey Jr., quindi tanta roba. Diciamo che nei fumetti Iron Man, appunto stiamo parlando di Iron Man, in realtà è Tony Stark, che è un costruttore di armi e un genio scientifico, laureato tipo a 18 anni, quindi un super geniale. Ciò che viene catturato in Afghanistan nelle versioni più recenti, una volta era tipo in Corea, perché ovviamente i supereroi invecchiano. Le guerre cambiano. Le guerre cambiano. Viene catturato in Afghanistan e viene costretto a costruire una nuova arma per un gruppo di terroristi. Ma lui, di nascosto, con l'aiuto di uno scienziato, costruisce la prima versione dell'armatura di Iron Man, che assomiglia un po' a una specie di gigantesca stufa grigia, con cui riesce a fuggire e poi da lì diventa un supereroe. Una specie di corazza. Una corazza, un esoscheletro, diciamo. Per usare un termine che Stefano piace a Stefano, apprezzerà, sì, che infatti sì, già lì con una lacrima praticamente di gioia. Che cosa succede? Che però lui è costretto per un altro motivo a costruire questa armatura. In pratica, quando è stato catturato, le schegge di una bomba si sono conficcate vicino al suo cuore, quindi per lui l'unico modo di poter sopravvivere è tenere nel petto un gigantesco magnete che serve a tenere separate le schegge della bomba dal cuore. Questo nel fumetto. Nel film, più che un magnete, è un'altra cosa, è un reattore di una nuova forma di energia che si chiama reattore ARC, che è quello che poi alimenta l'armatura di Iron Man, che nei fumetti è talmente ecologica che si può ricaricare attaccandola alla presa di corrente di casa. Vabbè, cioè, come un rasoio. Pensa tu. E Stefano, vogliamo dire qualcosa su questo super magnete che lui è costretto a conservare vicino al cuore? Un'altra storia bellissima. Come capita spesso, i fumetti anticipano la scienza. Anni e anni dopo l'invenzione di Tony Stark, qualcuno se l'ha inventato sul serio. Il supermagnete, siamo nel 1982, quindi ben dopo, viene fatta questa lega di boro, ferro e neodimio, si scopre che è un magnete potentissimo, li chiamano appunto magneti al neodimio, e adesso vengono usati nell'industria, per esempio, dei computer, nella componentistica, e ha una potenza 10 volte più potente dei magneti delle calamite con cui siamo normalmente abituati a lavorare, tanto che quando si maneggiano bisogna stare attenti, perché se non si presta attenzione ci si schiaccia le dita con molta facilità. Quindi davvero, il fumetto, in questo caso la fantascienza, è venuta prima della scienza, l'ha anticipata per poi realizzarsi. E invece prima ti sei illuminato parlando di esoscheletro, quindi esistono gli animali corazzati, lo sappiamo, e ce ne sono tantissimi, con storie altrettanto straordinarie, come sempre ci riservano insomma gli animali. Esistono e sono sempre esistiti, gli esempi più classici, dalla tartaruga ai crostacei. Se dovessi fare un paragone vero con Tony Stark, a me verrebbe in mente il paguro. Cioè questo crostaceo che... La conchiglietta. Già, non avendola lui l'armatura, se la costruisce, fra virgolette, cioè utilizza la conchiglia di un bivalve o di un gasteropode per potersi difendere, ma poi ce ne sono tanti. L'armadillo, che diventa una palla completamente inespugnabile, piuttosto che, andando nel passato, i placodermi, questi pesci fossili che erano pseudopesci in realtà, che avevano una testa completamente corazzata. Ma il più bello di tutti, secondo me, è il pachycefalosauro. Cos'è? Era un dinosauro, letteralmente il suo nome significa dinosauro dalla testa spessa, perché aveva una calotta cronica, brava, spesso, l'osso era spesso 23 centimetri. e si prendevano a craniate l'uno con l'altro, come fanno i bufali o i cervi, certo, oggi, per magari per conquistare le donne. Un po' come fanno Hulk e Iron Man nel nuovo film, che si vede anche nei trailer. Hulk è arrabbiato e Iron Man ha un'armatura per ogni uso, perché abbiamo dimenticato di dire che nei fumetti ne ha decine, e neanche una che si chiama Hulkbuster, che serve apposta per picchiare Hulk. È fatta solo ed esclusivamente per quello. Certo. Anzi, è la scena clou forse del film. Una delle scene clou, sì. Allora, direi che la nostra chiacchierata, purtroppo non possiamo snocciolarli tutti questi Avengers, perché come diceva Luca... No, sono non più ne di... facciamo tutti 140, un potere per uno, siamo 100. Qua a 50 ore. Quindi direi che ci dobbiamo interrompere qui. Sarete nostri ospiti per parlare ancora di supereroi, perché abbiamo deciso di raccontare ai nostri ascoltatori queste storie. Le abbiamo raccolte anche nel blog, nella sezione dedicata alla scienza fumetti, dove troverete tutte le puntate precedenti, anche questa, e tutti i contatti per venire a incontrarvi nei vostri posti di lavoro, che adesso li ricordo. Allora, Luca Bertuzzi di Wow Spazio Fumetto Milano, fumettologo, e Luca, ricordaci tu che in questi giorni c'è in mostra proprio per a puro Wow, giusto per puro caso. Per puro caso, perché in concomitanza credo del film, certo, l'abbiate ovviamente fatto, c'è la mostra anche per quello. Avengers in Mito. Avengers in Mito, che è appunto un viaggio nella storia degli Avengers a fumetti e nel cinema, piena di gadget e di oggetti di ogni genere, tutta la storia di questi supereroi e appunto la possibilità di conoscere tutti e 140 gli Avengers, che qua non c'era tempo e modo di farlo, perché abbiamo tra l'altro il database di Tony Stark consultabile. Ecco, allora ricordiamo, fino al 31 maggio a Wow Spazio Fumetto a Milano, che è un museo fantastico qui a Milano e forse unico nel suo genere in Italia. E poi Stefano Papi di ADM, l'associazione didattica museale del Museo di Storia Naturale di Milano, che si occupa, come sapete, di comunicazione della scienza, e anche lì troverete tutti i modi per poter incontrare Stefano nei prossimi appuntamenti di Scienza Comic. Sì, hai ragione, diamo appuntamento agli ascoltatori per tutte le prossime puntate. Riproporremo qualcuno dei supereroi vecchi, ma stiamo già ragionando su quale prossimo supereroe andare a spulciare sotto la lente della scienza. Bene, non ci vuoi dare nessuna anticipazione? Assolutamente mi pare no. Di capire. Grazie ragazzi, alla prossima. Grazie a voi. Grazie a te. Si sta avvicinando Bologna Medicina, grande appuntamento dedicato a tutti i temi della medicina, il 7, 8, 9 e 10 maggio. Settimana prossima. Settimana prossima. All'interno di queste, hanno organizzato anche delle cose abbastanza strane. Questa di cui stiamo parlando è proprio una di queste un po' strane. L'8, il 9 e il 10 ci saranno a Palazzo Renzo, che è proprio in piazza, in centro, esatto, in Piazza Maggiore. Ci sarà una specie di simulazione di quello che è una classica visita in corsia, sì, con un primario, un direttore, no? E con i suoi assistenti. Con tutti gli assistenti, i camici, ecco, e così via. E adesso qui abbiamo, incominciamo a introdurlo, il professor Renato Seracchioli. Buonasera Seracchioli. Buonasera. Lei è direttore dell'unità operativa di ginecologia al Policlinico Sant'Orsola di Bologna e lei farà una, adesso lo spieghiamo, una di queste visite temporali, no? Sarà uno dei protagonisti di questi di queste sceneggiature. Beh, chiamiamole sì, così. L'iniziativa ha un po' sorpreso anche noi, ma ci ha fatto anche piacere, perché è un modo anche per far capire alle persone, alla gente, come si è evoluta, come è cambiata la medicina, il modo di fare questo lavoro nell'arco di, in verità, di un breve periodo di tempo, cioè negli ultimi 50 anni. Partiremo dagli anni 55-60 e faremo una visita a una paziente di quegli anni, in quegli anni, ambientata in quegli anni, e poi una visita negli anni tempo 80, intermedio, e poi ai giorni nostri. Allora ci racconti un pochino, ci faccia un po' vivere questa cosa, come è cambiata? È cambiata in maniera radicale oppure in maniera soft? No, non so, non sapevo immaginarlo. Ma per quanto riguarda il nostro ambito, cioè la ginecologia, è cambiata veramente in maniera estremamente radicale, perché una volta negli anni 55-60, nel dopoguerra, si avevano veramente poche possibilità di fare diagnosi. Una volta la visita era il momento diagnostico fondamentale, quindi le lascio immaginare come una visita non possa essere così particolareggiata sulle possibilità diagnostiche di tante patologie dell'apparato genitale. Quindi si andava ovviamente in base all'esperienza di chi effettuava la visita, l'esame obiettivo. C'erano poi pochi esami che potevano essere utilizzati. Non c'erano l'ecografia, inutile dirlo. Non c'era l'ecografia, c'erano i raggi all'addome, ad esempio, che erano molto, davano delle idee molto sfumate sulla patologia, al massimo potevano dirci sulla grandezza delle patologie, delle masse addominali, ma poco di più. E quindi alla fine in molti casi si decideva di intervenire proprio per, non tanto per curare, ma soprattutto anche per fare diagnosi. Cioè si operava molto di più. Si operava molto di più, si operava in maniera molto cruenta, molto più cruenta, molto spesso in maniera demolitiva sull'apparato genitale, perché non c'era ancora la cultura del mantenimento, della preservazione della fertilità, e quindi ovviamente con le conseguenze che si possono immaginare. Quindi lei si approccerà con questa paziente degli anni 50 in maniera truce, la aprirà e farà vedere al pubblico? Sì, intanto sarà molto interessante anche vedere il diverso tipo di approccio con le pazienti in diverse epoche. Lei pensi che negli anni 60 non c'era un consenso informato per le pazienti? I pazienti venivano avvisati, quindi guarda, io la opero e andremo a vedere che cos'è, che patologia ha, ecco. E cercheremo di farla guarire. Farla guarire poteva voler dire anche asportarle tutto l'apparato genitale, quello si sapeva dopo l'intervento. Una roba molto sbrigativa. Beh, però c'è anche da dire che neanche il medico sapeva che cosa avrebbe incontrato. Non poteva dare di più, in fondo. Certo, non si avevano possibilità diagnostiche fini come quelle che abbiamo adesso. Poi negli anni 70-80 invece... negli anni 70-80 incominciamo ad avere una situazione un pochino diversa, c'era già l'ecografia addominale, per cui un'idea, anche se non precisa, l'avevamo sul tipo di patologia. C'erano stati gli anni del 68 dell'emancipazione femminile, quindi anche il rapporto medico-paziente era già completamente diverso. Si incominciava ad avere una maggiore attenzione sull'apparato genitale, sulle patologie femminili, ovviamente con le tecniche che si avevano a disposizione in quegli anni. Ad esempio nell'80 non si aveva una tecnica mini-invasiva come la laparoscopia o come l'isteroscopia operativa, e quindi si operavano le donne in maniera tradizionale, semmai con delle incisioni cutanee un pochino meno traumatiche e un pochino meno allargate rispetto agli anni 60, però sempre per si via si va via migliorando. Quindi diciamo che la terza tappa, quella dei giorni nostri, la conosciamo abbastanza, e lei si troverà insomma a suo agio. Mi troverò assolutamente a mio agio, perché ovviamente qui siamo aiutati da una serie di notizie veramente strumentazioni, complete, che riguardano, poi faremo anche vedere le differenze delle immagini, delle differenze di quello che si poteva osservare negli anni 60, negli anni 80 e al giorno d'oggi, cioè le possibilità di operare in maniera mini-invasiva, cioè con dei piccoli forellini sulla pancia senza lasciare quasi traccia dell'intervento. Sera Chioli, in conclusione ricordiamo che dopo tutta la realtà ginecologica invece ci sarà l'ittero, che è una cosa effettivamente che si può prestare, una malattia fastidiosa, assolutamente. E poi l'ortopedia sarà anche quella raccontata nel tempo. Esatto. Grazie professor Seracchioli, e vedremo a Bologna. Grazie a voi, arrivederci. E allora ricordiamo l'appuntamento nelle mattinate dell'8, 9, 10 maggio in Piazza Maggiore a Bologna, dove ci sarà anche la social box di Mebius, in cui potrete registrare di persona il video per il concorso Videocondria sulle malattie inventate. Lo potete fare anche da casa. Non lo avete ancora fatto? Trovate tutte le istruzioni sul nostro blog su radio24.it. Lo ricordiamo, Chiara? Lo ricordiamo che compiamo 400 puntate. Quindi tanti auguri a noi e anche a voi che ci ascoltate tutte le settimane. E però 401 la prossima settimana, tutti e tutte qui. Vi vogliamo tutti. Ciao.